Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera e benvenuti a Smart City. A parte puffi, insomma, e altre creature di fantasia, l'idea di vivere dentro a un fungo appare quantomeno bizzarra. Eppure c'è chi oggi sta pensando ai funghi come materia prima non per pizze o tagliatelle, ma per case e altri edifici. Più precisamente c'è chi guarda a certi tipi di funghi e in particolare al loro micelio, cioè quella parte del fungo che assomiglia un po' alle radici di una pianta, come materiale da costruzione in grado di sostituire i materiali di derivazione petrolifera come il polistirolo, usato per fare cappotti isolanti, imballaggi ed altro ancora. Ci facciamo spiegare tutto da Stefano Babbini, che è fondatore e amministratore delegato di Mycoplast, startup che sta sviluppando tutta una serie di prodotti appunto a base di micelio di funghi. Buonasera Babbini. Buonasera, buonasera. Allora Babbini, voi state per iniziare a commercializzare una linea di prodotti che vanno sotto il nome di Mogu, che poi è il materiale con cui li fate questi prodotti, che però sono molto diversi fra loro. Intanto partiamo da una carrellata. Sì, esattamente, stiamo iniziando a lavorare appunto per lanciare dei biopannelli che verranno destinati al mercato della bioedilizia e della bioarchitettura e biodesign. Che hanno una funzione che cosa? Isolante, giusto? Tra le altre. Isolante, fonoassorbente ed inoltre hanno una caratteristica estetica molto, molto piacevole, quindi anche decorativi. Poi, oltre a questi pannelli? Successivamente stiamo anche lavorando in collaborazione con altre aziende per sviluppare dei supporti di packaging secondario, per arrivare infine a sviluppare dei biovasi che siano biodegradabili con le piante. Allora Babbini, perché il micelio di un fungo per fare concorrenza all'EPS, quindi insomma al polistirene? Ma in realtà speriamo di fare un po' meglio delle PS, grazie ad alcune caratteristiche molto interessanti. In particolare appunto è un materiale composito realizzato a partire da scarti vegetali e questo biopolimero straordinario. Che è il micelio stesso, no? Mi dice. Esattamente, la parte vegetativa dei funghi e a partire da questo processo naturale è possibile realizzare dei materiali molto leggeri, però anche dotati di caratteristiche appunto come si diceva fonoassorbenti, di coiventanti e non bruciano neanche, tra l'altro, che non è male. Un'altra caratteristica è quella che alcuni ceppi fungini sono esattamente ignifughi. Insomma, questo micelio sostanzialmente è un materiale che di fatto è molto leggero, ingloba tanta aria, quindi più o meno ha le stesse caratteristiche fisiche, per capirsi, di un polistirene espanso o estruso. E in più però si produce non a partire da petrolio, ma addirittura da scarti dell'industria alimentare, no? Come funziona il processo per... voi avete degli scarti agricoli, diciamo così, dovete fare un pannello o magari un vaso in fungo. Come funziona? Noi partiamo appunto da fibre vegetali, realizziamo la pezzatura che è necessaria per l'oggetto finale, che ottimizza quindi le caratteristiche finali, prepariamo la casa al fungo attraverso un processo di sostanzialmente simile alla pastorizzazione che avviene nell'industria alimentare, dopodiché inoculiamo il nostro fungo, sì. Lo facciamo crescere nelle condizioni migliori fino a che non è arrivata una proliferazione, una colonizzazione completa, dopodiché... Lo fate crescere in uno stampo sostanzialmente questo fungo, è corretto? Sì, lo facciamo crescere in uno stampo per offrire e poter raggiungere la forma definitiva direttamente. Perfetto. Nella fase di crescita. Dopodiché è necessario arrivare a inertizzare il materiale, perché altrimenti il fungo continuerebbe a crescere ovviamente. Questo lo facciamo tramite il calore. Quindi viene fatto crescere all'interno di uno stampo, quando aprite questo stampo dovete fermare la crescita del fungo, renderlo inerte, anche perché se no se lo mangia la prima lumaca che passa di lì. Immagino che se uno vuol farci un pannello isolante... Certamente, anche perché i materiali devono chiaramente avere uno standard sanitario adeguato per essere commercializzati. Certo. Quindi, ecco, e voi qui avete anche due strategie, appunto fare prodotti che siano poi biodegradabili, ma non è obbligatorio, no? Assolutamente, di fatto la biodegradabilità è qualcosa di molto apprezzato per esempio nell'industria del packaging, dove lo smaltimento dei materiali è un problema quindi sul prodotto, ma in realtà lavorando poi con l'industria edilizia per esempio Esattamente, la bioarchitettura o il design addirittura per produrre pannelli che possano essere impiegati per i mobili è necessario avere materiali durevoli e quindi utilizziamo poi delle resine cosiddette bio-based che però non sono degradabili e permettono di avere degli oggetti di lunga durata. Qual è il vostro approccio di business in questo momento? Una cosa mi ha colpito quando abbiamo chiacchierato, lei mi ha detto che al momento voi collaborate con imprese che hanno un problema, in che senso? Esattamente, noi, a me piace sempre dire che noi siamo una piattaforma tecnologica naturale che lavora su due livelli. Il primo livello è lavorare con chi ha un problema, cioè con chi ha uno scarto, un coprodotto, quindi dell'industria alimentare, certo, cioè. Esatto, con delle industrie che hanno queste fibre che non riescono a riutilizzare per mille motivi e quindi chiamano noi chiedendo di dare un valore in più, per esempio l'industria alimentare, ma anche l'industria tessile in questo caso, o anche addirittura c'è un collegamento interessante con l'industria delle energie rinnovabili, con chi produce ad esempio biogas e ha dei materiali di scarto che potrebbero essere utilizzati. Perfetto, quindi questi materiali di scarto saranno il substrato su cui voi fate crescere questi funghi. Questa è l'idea, cioè arrivare a un concetto di economia circolare che chiude il cerchio. E speriamo proprio che ce la facciate. E allora avanti così, grazie Stefano Babbini per essere rimasto con noi. Grazie mille, grazie a voi. Ci fermiamo qui, appuntamento come sempre a domani, buona serata. Audi è innovazione. Scopri i protagonisti e le loro idee su audiinnovativethinking.it.